Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Buongiorno perché è un bel giorno, è una bella giornata di sole e perché da oggi proviamo a lanciare 4 lezioni una settimanale di ambiente inteso in senso largo. Partiremo oggi con la biodiversità e sarà seguita dal cambiamento climatico, dalla qualità dell'aria e dalla resilienza. 4 argomenti fortemente interconnessi che verranno trattati con me, umile paroliere di questa serie di lezioni. Mi chiamo Roberto Valenti, e sono un ricercatore di sapienza. E oggi faremo una lezione appunto sulla biodiversità, una lezione sui generis un po' particolare, che a mio modesto parere rimarrà impressa perché utilizza metodi più che tecniche, radiofonici che imprimono nuovamente il messaggio che si vuole trasmettere. E questo messaggio non è assolutamente un messaggio di parte, bensì vuole essere un messaggio divulgativo di tipo scientifico, perché mi metto tra gli studiosi, facciamo divulgazione scientifica. Badate, divulgazione scientifica non equivale a dire la verità assoluta, perché la verità è un concetto astratto, ma dice la verità che ad oggi è inconfutabile, ossia l'unica verità che non è possibile confutare. E questo metodo scientifico è antico come il mondo, ci hanno insegnato i greci, poi i latini, poi la scienza si è fatta avanti con questo metodo, no? Per cui ogni cosa che viene detta deve essere provata, fino a quando non ci sarà una prova contraria che ne determina l'inverosimilità di una parte o di tutta la teoria si rimarrà valida. Fino a quando è corroborata, è valida. E quindi ricordatelo anche per altre tematiche scientifiche, fatene tesoro per quello che vi dirò oggi, perché mi interessa parlare di fake news. Fake news sulla biodiversità ce ne sono a bizzeffe. Dunque, perché una teoria così come la notizia è vera solo se sostenuta da fatti inoppugnabili e da elementi chiari e inconfutabili, e non può essere vera perché lo dice la TV o c'è scritto sul web? Perché? Ma perché sul web e in televisione compare tutto il contrario di tutto, ve ne sarete accorti. Ci sono decine di migliaia di interpretazioni della stessa cosa e uno non sa più a che cosa riferirsi per prendere l'interpretazione giusta. In più, oggi c'è il problema dell'informazione, perché riceviamo centinaia, siamo bombardati dalle informazioni, ma non leggiamo più niente. Non leggiamo più nulla, ragazzi. Guardiamoci negli occhi, anche se siamo alla radio. Chi di voi legge una mail lunga? Nessuno. Nessuno, perché questi maledetti telefonini ci hanno obbligato a prendere informazioni rapide, veloci, immediate. Cioè, non so una cosa, non c'è problema, va su Google. Sì, vado su Google, ma poi non la so uguale, perché al massimo leggo la prima riga di Google, e se dice che la biodiversità sta bene, io leggo che sta bene la biodiversità e credo che sta bene la biodiversità, ma questo può essere tutto. Quindi, allora, cominciamo a parlare di biodiversità scientificamente. Allora, gli scienziati, innanzitutto gli studiosi, non hanno ancora un'idea chiara di quante specie, dagli organismi unicellulari alle balene, esistano sulla faccia della Terra. Diversi studi riportano diversi numeri delle specie viventi, così si va da 4 milioni a 100 milioni. Insomma, è un potpourri, un melting pot che non si capisce niente. C'è uno studio scientifico, però, che parla in dettaglio delle specie attualmente conosciute e vanno da 1,5 a 1,8 milioni. 1.800.000 specie, dunque, sono tante, come dimostrano le scoperte recenti. È possibile che siano in difetto, perché ci sono sicuramente dei mammiferi sfuggiti all'osservazione degli zoologi, come ci sono molte specie vegetali e animali ambiente tropicali, soprattutto di mare profondo, che non si conoscono proprio, e per non parlare di invertebrati, dei funghi o dei batteri, dei virus, i virus che in questi giorni ci tiene inchiodato a casa. I virus che conosciamo, i batteri che conosciamo, sembra che siano meno dell'1% dei batteri che sono stati catalogati. Il pianeta Terra, quindi, almeno per gli aspetti della biodiversità, resta in gran parte sconosciuto. Ma intanto la biodiversità continua a perdere pezzi. Si stima che ogni giorno scompaiano circa 50 specie viventi. L'estinzione è un fatto naturale e si è sempre verificato nella storia della Terra. Mediamente una specie vive 1 milione di anni. Mediamente. Il problema è che attualmente la biodiversità si riduce a un ritmo da 100 a 1000 volte più elevato rispetto al ritmo naturale. Questo fa ritenere che siamo di fronte a un'estinzione delle specie superiore a quella che la Terra ha vissuto negli ultimi 65 milioni di anni. Persino superiore a quella che accidentalmente segnò la fine dei dinosauri. È un parallelo piuttosto inquietante con i cambiamenti climatici che si muovono alla stregua della perdita di biodiversità molto rapidamente, molto velocemente. Cambiamenti climatici nelle epoche passate ci sono sempre stati, ma non hanno mai raggiunto i picchi attuali, la velocità attuale, l'incidenza attuale, per cui si ritiene che cambiamenti climatici così veloci non diano modo a gran parte delle specie di adattarsi. Ma questo ci ritorneremo alla prossima lezione. Parliamo d'Italia, quindi. L'Italia è uno dei paesi più ricchi di biodiversità, questo lo sappiamo perché ci viene detto in tutte le salse. È la varietà di condizioni biogeografiche, geomorfologiche e climatiche che caratterizza il territorio italiano, facendo di esso una concentrazione sia di specie che di habitat. Ma in Italia, per esempio, il Mediterraneo in genere, non l'Italia, è classificato come hotspot, che in termini scientifici significa proprio un punto caldo. Punto caldo poi ripreso anche nei cambiamenti climatici, come vedremo. E i punti caldi sarebbero zone di alta biodiversità che si concentrano in Italia, per esempio nelle Alpi Marittime Liguri o le Alpi Apuane, o la catena appenninica intera, caratterizzata da un numero elevatissimo di specie endemiche, la Carnia, le Dolomiti, la Sicilia e la Sardegna. Insomma, c'è un mélange di aree geografiche di particolare interesse che ne fanno il prezioso gioiello dell'Europa. E l'Europa ricopre una superficie di 10 milioni e 200 mila chilometri quadrati, più o meno, mentre l'Italia 303 mila chilometri quadrati. Dunque la superficie dell'Italia rispetto all'Europa è di circa il 3%. Le specie vegetali, parlo di vegetali perché è il mondo che conosco, essendo di estrazione botanica, io ho studiato botanica. E dunque nel 3% della superficie europea sta il 50% orientativamente delle specie vegetali che vivono in Europa. Quindi questo già è un dato che deve far riflettere, no? E è in assoluto il paese con il più alto numero di specie, in particolare esso appunto ospita metà delle specie vegetali e circa un terzo di tutte quelle animali. Alcuni gruppi, alcune famiglie di invertebrati sono presenti in misura doppia o tripla addirittura, e tutto questo rispecchia il cosiddetto gradiente latitudinale, perché la ricchezza dell'Italia, la ricchezza di specie italiane è data proprio da questa tipicità che l'Italia ha di essere lo stivale emesso con un gradiente latitudinale da nord a sud, viaggia per 2000 km da nord a sud, dando un'ampia prova dei possibili climi che si vivono in Europa. In Italia sono rispecchiati tutti, da nord a sud, in più con la presenza della catena montuosa, l'Appennino, che li divide in due, est-ovest, e le Alpi la cingono a nord. È una situazione pressoché unica, che in parte vive la Grecia in Europa, in parte però. E adesso non vi do i numeri, se no vi dedio troppo, e vi dico solo che a livello quantitativo il maggior numero di specie si trova nelle regioni caratterizzate da maggiore variabilità ambientale. Quindi il Piemonte è la prima regione italiana, 3.304 specie, poi la Toscana, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio e l'Abruzzo sono le prime sei. Noterete che non ci sono Sicilia e Sardegna. Non ci sono per numero di specie, ma Sicilia e Sardegna compaiono prime in Europa e prime in gran parte delle statistiche mondiali per il numero di specie endemiche. Quindi le specie endemiche sono specie che sono caratterizzate da un'evoluzione tipica di una specie che è vissuta in un posto e solo in un quello. Vi faccio un esempio: sui Nebrodi, sui Benigeni Nebrodi, esiste una zelkova, un olmo di origine caucasica, che si è ambientata nelle valli dei Nebrodi e vive solo lì. È possibile trovarla solo lì. È un po' come il pino loricato, che vive sul Pollino, un albero fantastico. E allora, questi endemismi ce ne sono ben 322 in Sicilia e 256 in Sardegna, con 344 specie esclusive in Sicilia e 277 in Sardegna, capite bene che i numeri dicono che l'Italia è l'Italia e ne dobbiamo andare fieri. Un'estensione così però non si è mai riscontrata di boschi fino ad oggi, e forse è anche dovuto al fatto che c'è stato l'abbandono delle montagne. Quindi abitiamo in un bel paese, ne dobbiamo essere contenti, tutelarlo, intendendo per tutelarlo, tutelarne tutte le componenti che lo rendono così particolare ed altamente vivibile: suolo, acqua, paesaggio culturale, piante e animali. Ma prendiamo ad esempio la biodiversità e ascoltiamo questo pezzo di un illustre italiano. Lo ascoltiamo dopo aver sentito anche una canzone per spezzare un po' la lezione. Vai! Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affected if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling, you're in love with me. I said I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. La guerra mi diceva sempre: c'è un uomo che cammina dritto e preciso verso il futuro, ma spesso voltando la testa all'indietro. E quando gli chiedono perché, lui risponde: se io non guardo il mio passato, non riesco a trovare la strada dritta per andare verso il futuro. Cambiamento vuol dire anche questo, eh? Cambiamento vuol dire andare verso il futuro, ma guardare le cose belle del passato e tenerle e cercare di migliorarle. Questa lavagna vediamo se riuscirà ad assomigliare ad una normale lavagna mobile. La prima cosa che voglio copiare da Doris è il cerchio, che è fantastico. Cavoli, avete tolto il biscione da ieri. Un grande cambiamento, ragazzi. Perché sono tutti capaci di cambiare quando le robe vanno male. È cambiare mentre tutto va bene che ci va, bisogna avere coraggio. Poi ne parliamo. Voglio copiare il cerchio di Doris perché mi piace da pazzi. Mi aiuta per inquadrare il cambiamento io parto sempre dallo scenario, cercare di capire dove viviamo, e quindi per me questo cerchio è il mondo. Pensiamo due minuti al mondo. Il mondo è nato 6 miliardi di anni fa, non è neanche tanto vecchio, 6 miliardi, chissà quanto durerà ancora, perché tutto ha un inizio e una fine. Noi umani invece siamo molto più piccoli, siamo nati 150 milioni di anni fa, ieri, abbiamo ancora una marea di strada da fare, abbiamo un sacco di invenzioni da fare. In questo mondo ci abitano 7 miliardi e 300 milioni di persone, pazzesco, pazzesco, mai stata tanta gente così nel mondo. Pensate che nel 1969 eravamo 2 miliardi, 7 miliardi e 3. Siamo per il 45% gialli, siamo per il 20% bianchi, siamo per il 20% marroni e siamo per il 15% neri. Siamo divisi in 194 stati, parliamo 114 macrolinguaggi completamente diversi tra loro, più migliaia di linguaggi indigeni, di idiomi, 14 macro religioni molto diverse da loro e che spesso confliggono tra loro. 42 di questi 194 stati sono in guerra, sono in guerra. 42 stati su 194, vuol dire che 2 miliardi di persone vivono in guerra, la popolazione del mondo nel 1969, come se nel 1969 tutti fossero in guerra. L'80% di questi 7 miliardi e 3 di persone vivono in casa senza abitabilità, il 55% analfabeti. Ma il numero che più impressiona è il solito 80-20, che funziona anche qua. Il 20% della popolazione del mondo detiene l'80% del PIL. E la prima cosa che ci deve venire in mente, guardando questo mondo, che è già molto meglio, 160 anni fa, quando è nata la società dei consumi, l'1% dei cittadini del mondo deteneva il 99% e mezzo del PIL, è già cambiato molto. La differenza tra loro e oggi è che oggi quell'80 lì vede come viviamo noi che siamo il 20. Questa è la grande differenza. E quindi la prima cosa che ci deve venire in mente quando vediamo questi numeri qua è: siccome nessuno di noi decide quando nascere, dove nascere, da chi nascere, ed è la meraviglia dell'imperfezione di noi umani, è che culo che abbiamo voluto nascere in quel 20% lì. E chi ha una fortuna così nella vita, immeritata, nel senso che non abbiamo deciso noi dove nascere, la prima cosa che deve pensare è come farselo perdonare sto culo. Si può fare charity, come per esempio so che voi fate con la vostra fondazione, ma il modo migliore di farlo è decidere di impegnarsi nel proprio lavoro, di darsi da fare, per fare in maniera che si possano creare nuovi posti di lavoro e impegnarsi a cambiare. In mezzo a questo mondo c'è una robetta che è lo 0,50% della superficie del mondo, che si chiama Italia. È lo 0,83% dei cittadini del mondo. Guardate che ecco, in questo è meglio della lavagna normale, perché avrei dovuto cancellare. Pensate a questa roba qua. 0,50 e 0,83, ricordatevelo. In questa roba qua, questa è l'unica penisola che viaggia stretto da nord a sud su una latitudine perfetta chiusa all'interno di un mare buono. Unica situazione geografica del pianeta, al mondo. E che cosa succede qua? Succede che i venti buoni dei nostri mari si incontrano, fanno meeting, con i venti buoni e l'aria fresca delle nostre colline e delle nostre montagne. è una roba unica al mondo. The answer, my friend, is blowing in the wind. La risposta è nel vento. E grazie a questa situazione unica al mondo nasce, che figata, adesso metto nero, perfetto. Succede una meraviglia. Ci succede che qui, in questo paesino che si chiama Pra, vicino a Genova, nasce il basilico più buono del mondo. Perché figlio, i genovesi, qua, i liguri, guardali là. Va bene. Dove sono i friulani? Il San Daniele, che è figlio della Bora e delle Dolomiti. Non c'è un friulano, guardali là il friulano. Il Parma, che è figlio delle Alpi Apuane, dei venti del Mediterraneo. E così succede che la pasta più buona del mondo si dice che si faccia a Gragnano. Dov'è Napoli? Perché a Gragnano c'è la via Roma, la cosiddetta galleria del vento, dove l'aria fresca di Castellammare di Stabia si incontra con la brezza del Vesuvio, si crea un microclima unico. I napoletani mettevano la pasta di sicare lì, vedevano che vedeva più buona da tutte le altre parti d'Italia. E così succede che in Abruzzo c'è lo zafferano più buono del mondo, che in Calabria la liquirizia è figlia dello Ionio e delle Alpi Apuane, il mirto in Sardegna, il pachino in Sicilia, e potrei andare avanti mezz'ora. I siciliani. E così succede, sono 3-4 numeri che vi dico, vi prego, memorizzateli, fateli diventare proud, il vostro orgoglio. Succede che in questa roba, che lo 0,50% della superficie del mondo, ci sono 7.000 specie di vegetali mangiabili. Il secondo paese al mondo, il Brasile, ne ha 3.300. Qualsiasi regione italiana ha più specie vegetali di qualsiasi stato dell'Europa. Succede che in questa robetta, che è lo 0,50% del mondo, abbiamo 58.000 specie animali diverse, 42.000 di terra e aria, 10.500 di acqua salata, di mare, 5.500 di acqua dolce. Il secondo paese al mondo è il 6% della superficie del mondo, ne ha 20.000, noi 58.000, non lo dico mai perché sennò i cinesi si arrabbiano, ma è mostruosa. Succede che in Italia abbiamo 1.200 vitigni autoctoni, il secondo paese è la Francia, ne ha 222. Succede che in Italia c'è 533 cultivar di olive, il secondo paese del mondo è la Spagna, ne ha 70. In Italia abbiamo 140 cultivar di grano duro, il paese che ne produce di più al mondo sono gli Stati Uniti d'America, ne ha 6. Questa meraviglia si chiama biodiversità, siamo il paese più biodiverso al mondo. E la stessa biodiversità che abbiamo nell'agroalimentare, che si è trasformata in enogastronomia, ed è il motivo per cui io mi occupo di questo, si è poi anche trasformata nella biodiversità umana. Siamo il paese che ha più etnie al mondo, etnie indigene, e tutti gli antropologi sono d'accordo in questo. È una storia meravigliosa che parte 40.000 anni fa, Neanderthal e Homo sapiens, entrambi partiti dall'Africa, ma hanno fatto strade diverse, mai si sono incontrati nel mondo, tranne che in un luogo, l'Italia, e pare pure abbiano gioito tra loro. E da lì nasce questa meraviglia, che è la biodiversità umana. Ed è per quello che decine di migliaia di anni dopo l'Italia ha avuto il primo grande impero, leader sia nel sociale che nel politico, nel mondo. Ed è per quello che altri 1500 anni dopo è nato il Rinascimento, in Italia. Ed è per quello che noi oggi deteniamo il 70% del patrimonio artistico del mondo. 70% nello 0,50% della superficie del mondo, vi rendete conto? E la biodiversità poi si è trasformata nei paesaggi. Abbiamo i paesaggi più belli al mondo, perché chi sono i designer dei paesaggi? I contadini. E i contadini sono figli del vento. The answer, my friend, is blowing the wind. Quindi, dopo esserci fatti perdonare il culo di essere nati nel nord del mondo, in quel 20% che ha l'80% ricchezza, dobbiamo farci perdonare anche il culo di essere nati in Italia. Ricordatelo. Dunque, avete ascoltato Farinetti, Oscar Farinetti, che è il patron di Italy, sapete, quella grande catena italiana che ha aperto in tutti i paesi occidentali i negozi, anche in Italia, e che fa del cibo italiano il proud, l'orgoglio di se stessi. Ecco, Farinetti è diventato, io non lo sapevo, un divulgatore scientifico. Adesso io faccio parte di un'associazione ambientale che si chiama Istituto Ambientale, IEA, e noi non ci permetteremo mai di dire i numeri così un po' a vanvera. Guardate, vi faccio notare che in ordine è stato detto nell'audio che avete ascoltato che l'Italia occupa lo 0,5% della terra, 0,5% della terra. È falso, l'Italia occupa lo 0,2% della terra, ha una superficie di 303.000 km quadrati, mentre la terra è circa 150 milioni di km quadrati. Fatte le debite proporzioni, risulta 0,21%. È vero che ci vive circa lo 0,80% dell'umanità, però andiamo a vedere le specie vegetali. Nel mondo si contano circa 350.000 differenti specie vegetali. È vero, in Italia ne abbiamo circa 7.600. Ora, avete ascoltato che nel video si dice 7.000 specie di vegetali mangiabili e che il secondo paese al mondo, che è il Brasile, ne ha 3.300. Wow! Uno si immaginerebbe che in Italia si mangino tutte le piante che ci sono, mentre in Brasile, regno della biodiversità assoluta, se mangiano solo una piccola parte. Ecco, io ho il modo di dare questi numeri. Quando si vuole, non si dice che è un numero giusto, quello delle piante che ci sono nel nostro paese, si aggiunge la parola mangiabili, alterandone fortemente il significato, perché di 7.600 piante che ci sono in Italia sarà mangiabile il 10-15%. E altresì non si dice che nel caso del Brasile si è preso come numero vero, 3.300, il numero delle specie eduli, non il numero generale. Quindi è stato confrontato un numero generale con un numero parziale. È un'operazione scorretta, come capite bene, no? Vedete come i numeri possono cambiare pur rimanendo sostanzialmente uguali. Sono sicuro che se andassimo a dire a Farinetti questa cosa, dice: le specie in Italia sono 7.600, punto. Sì, ma tu hai detto, non se ne esce. Da questa cosa non se ne esce, è una fake news, capite bene che è una fake news. Ma la stessa cosa vale per le specie animali, quelle tipicamente italiane e endemiche sono circa 5.000, le altre sono specie che sono state introdotte nel nostro paese negli anni, non originarie qui. Resta pur vero che superano 50.000 specie. In Italia ci saranno pure oltre 50.000 specie diverse, ma si stima che nel mondo ce ne siano più di 8 milioni, mica bazzecole. E ci viene da dubitare quando ascoltiamo il 6% della superficie del mondo ne ha 20.000, noi 58.000. Oibò, che la Cina faccia registrare un numero di specie animali con la sconfinata variabilità di habitat che ha così basso, ci viene da pensare. Infatti i dati scientifici raccontano un'altra storia. Solo nella foresta amazzonica, in Brasile, ci sono 3 milioni di insetti e altri invertebrati, 1.294 specie di uccelli, bla bla bla bla. Per non parlare della varietà di fauna marina, che può contenere la grande barriera corallina australiana. Come dicevo, anche il dato della Cina andrebbe verificato, considerando che si estende innanzitutto per il 9% e non il 6% che si estende per il 9,7%, che in questo caso pure sbaglia la percentuale dicendo il 6 della superficie mondiale, no? Tra foreste, praterie, ecosistemi d'acqua dolce, laghi d'acqua salata, zone umide costiere, e quindi rimane difficile pensare che il dato sia quello che è stato detto da Farinetti. Sui vitigni poi dà il meglio di sé. Sui vitigni occorre spiegare qualcosa. Succede che in Italia abbiamo circa 1200 vitigni autoctoni. È vero, il secondo paese è la Francia, anche questo è vero, che ne ha circa 220. Ma nel mondo esistono circa 5.000 cultivar di vigneti, in Italia quelli diffusi sono circa 200, cioè non si tiene conto della vigna di zio Pino o del fratello Giuseppe che stanno nella montagna del Piemonte piuttosto che nella vallata della Sicilia. È qui che sbaglia, quando confronta cultivar, quindi registrate 1220, con cultivar non registrate in un altro paese. È un'operazione scorretta, no? 533 cultivar di olive, seconda è la Spagna che ne ha 70. Immaginate questa differenza di specie vegetali tra il confine italiano e il confine spagnolo, ma i vegetali non conoscono confini. Quindi, ma perché ci vuoi far credere che siamo gli baciati dal Signore, i baciati? E poi il meglio di sé lo dà con i 140 tipi di granduro. Negli Stati Uniti solo 6. Scusate, il grano da qualche anno si classifica, secondo lo studio di Van Slageren, in 6 gruppi. Quindi i tipi di grano duro possibile sono 6, tutte le altre sono sottospecie. Anche in questo caso, da dove salterebbero fuori 140 tipi di grano presenti in Italia? Non è che si tratta delle stesse 6 famiglie e del loro cultivar? Allora si dovrebbe dire 140 tipi di cultivar di genere differente. Quindi anche negli Stati Uniti andrebbero rifatti i conti, no? Vedete? Una mossa tipo Brasile e voilà! Dico il dato che voglio, amplificandone la portata a dismisura. Di etnie non parlo, non è il mio settore. E diffidate dai duttologi. I duttologi vi portano sulla cattiva strada. Comunque non vorrei parlare nemmeno del patrimonio artistico, ma qui la disinformazione fa il massimo, perché è una storia vecchia, ce la portiamo dietro da anni. L'avrete sentito tutti, che il patrimonio culturale italiano è importantissimo, non esiste una stima che vale una percentuale e bla e bla e bla. Andiamo a vedere, dico, i numeri allora del patrimonio italiano. È vero che per l'UNESCO siamo il paese con i siti, con più siti di interesse mondiale, 50 nella lista UNESCO, ma la Spagna ne ha 44, la Francia 39, non così tanti di meno. Certo, i numeri dell'UNESCO vogliono dire fuffa praticamente, il nostro patrimonio è immenso, verissimo. Ma come può dimostrare una veloce ricerca online? I numeri sono campati per aria. Qualche tempo fa su un sito istituzionale, ci si era spinti a parlare del fatto che detenessimo il 50% dei beni dell'UNESCO. Ma visto che al momento i beni tutelati come patrimonio mondiale sono in totale 1700, di cui 779 culturali, capirete che noi con i nostri 50 non arriviamo neppure a farne un misero 10%. Quindi andiamo cauti a dire il 70%, come detto, del patrimonio culturale sta in Italia. Allora, io sono dell'idea che il nostro sia un bellissimo paese, guardate. E non ho fatto questa lezione per dare addosso all'Italia, anzi, apprezzo che Farinetti abbia detto quelle cose in tempi non sospetti, nel 2015, ma ciò che non apprezzo è che venga tirato fuori ad arte oggi nel 2020 e sotto Covid-19 per rinsaldare quel senso di unione italiano che poi ci fa dire chiudiamo le frontiere, tutti fuori e no, fermi tutti. Noi siamo, se siamo il più bel paese del mondo non lo so, siamo un bel paese, ma la disinformazione fa male. Quando poi ti confronti con la realtà è importante accorgersi che non siamo migliori di tanti altri posti del mondo. Di bello c'è che siamo italiani e all'estero ci amano molto per questo, ma non siamo il paese con la biodiversità maggiore al mondo. Basta farsi un giretto su qualche sito specializzato per verificare quale sia la reale situazione. Al massimo potremmo essere quelli che hanno più biodiversità in Europa, ma comunque scientificamente mancano le basi per affermarlo con certezza. L'orgoglio non deve vincere sui numeri e sulla geografia. Possiamo essere fortunati ad essere italiani con la nostra storia e la nostra cultura. Tutto vero, il Rinascimento del Nord Italia, il cibo, la moda, ma le condizioni bioclimatiche non sono uniche, sono come quelle di tanti altri paesi. Rientriamo tuttavia nel clima mediterraneo, che ricordiamo non essere ad esclusivo appannaggio dell'Italia. Evitiamo quindi di essere utonti e di condividere post come questo, facendo diventare virali in tempi di Covid-19, che vi ricordo ha già superato le 30.000 condivisioni e continua a girare con tanti like. È stato messo in giro ad arte, essendo anche un po' datato, ripeto, del 2015. Restiamo uniti e restiamo italiani. Deve valere ancora di più in questo periodo di lotta contro il coronavirus. E ringraziamo Oscar Farinetti per il suo intervento, riproposto su web, per infondere fiducia agli italiani. Ma alla fine dal coronavirus ne usciremo comunque senza esagerare su ciò che effettivamente siamo. Molte cose descritte sono indubbiamente vere e sono fiero che un personaggio pubblico le racconti, ma non abbiamo bisogno di mentire per imporre all'Italia alla giusta attenzione del mondo. Avete compreso bene dunque, e potrei continuare con le fake news, ma mi fermo qua facendo ascoltare un pezzo sulle fake news di una persona molto più importante di me. Bevete acqua calda, trattenete il respiro, prendete la vitamina C, chiacchiere da bar in realtà esempi delle bufale che hanno infestato i social e le chat di queste settimane. Alcune innocue, hanno solo fatto impennare la vendita di alcuni beni. Trovare vitamine C è ora difficile quanto reperire mascherine. Altre pericolose o inutilmente ansiogene in un momento in cui non abbiamo certo bisogno di ansia aggiuntiva, come il fake intervento in Parlamento attribuito alla ministra dell'istruzione Azzolina, che informa i colleghi deputati che il virus sta trasformandosi in ceppi più gravi. Chiacchiere da bar sempre esistite. Durante l'ultima epidemia di colera si attribuivano virtù miracolose addirittura ad un noto amaro digestivo. Chiacchiere che però ai tempi dei social, delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione si diffondono più rapidamente del contagio. Il nostro paese non è ovviamente solo a farne le spese. In Gran Bretagna si è diffusa la teoria che la diffusione del virus sarebbe facilitata dalle antenne del 5G che indebolirebbero le difese immunitarie. Sì, proprio la tecnologia Huawei presa di mira da Trump. Se non bastassero le pressioni americane sui nostri governi, potrebbe entrare in scena il popolo impaurito dai contagi con un nuovo fronte di massa per bandire Huawei. Si stava meglio quando si stava peggio, con le chiacchiere da bar, senza social, senza le grandi capacità di comunicazione dei nostri giorni? C'è un rovescio della medaglia da cui non possiamo prescindere. In Cina, Corea del Sud, Vietnam, le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione stanno rivelandosi fondamentali per raccogliere informazioni utili a far fronte all'epidemia. Un'app cinese calcola con i sistemi di geolocalizzazione il rischio che l'utente rappresenta per la sua età in una scala di tre colori: rosso quarantena, giallo mobilità ridotta, verde nessuna restrizione. Le app sudcoreane forniscono invece una mappa dei contagiati o dei luoghi dove è stato registrato il virus attorno all'utente. Quella vietnamita permette al contagiato di registrare giorno per giorno il proprio stato di salute ed indicare casi sospetti nel proprio quartiere. E che dire infine dell'intelligenza artificiale? In Cina si sta dimostrando un'arma importante nella guerra del popolo al coronavirus. Dai robot intelligenti per le prime diagnosi a distanza, senza intasare i centri di emergenza degli ospedali, ai software che prevedono i numeri del contagio con un grado di accuratezza del 90%. Fino al controllo sul rispetto della quarantena effettuati anche grazie al riconoscimento facciale. C'è un però, e riguarda proprio il controllo, o meglio il lato oscuro del controllo. Il rischio, denunciato più volte, che queste tecnologie possano limitare le libertà personali, soprattutto se al servizio di regimi autoritari. Più che un rischio, una certezza, come già documentato in molti paesi. In un clima da whatever it takes, facciamo qualunque cosa purché si fermi, il Grande Fratello 2.0 può apparirci rassicurante e funzionare alla guerra. Alla guerra come alla guerra, no? Pensando al nostro futuro, non possiamo però permetterci di abbassare la guardia sui gravi rischi che comporta. Sui rovesci della medaglia, appunto. Boys in nasty schools, headmasters breaking all the rules, having fun and playing pool, smashing up the woodwork tools. All the teachers in the pub, passing man a ready rub, trying not to think of when that lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All of the at school, what hasn't been not like the rule. Oh, what fun we had, but at the time it seems so bad, trying different ways to make a difference through. The headmasters had enough today. Gone to fight with next door school. Every term that is the rule. Sits alone and vents his pain. Same old backsides again. All the small ones tell two tales. Walking home and squashing snow. Oh, what fun we had. But did it really turn out bad? All alone at school. What has it been? Not break the rule. Oh, what fun we had. But at that time it seemed so bad. Trying different ways to make sure we go through the day. Lots of boys, lots of smells and lots of noise. Playing football in the park, kicking push bikes after dark. Baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt. Teacher comes to breaking up, back of the end with a plastic cup. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad. Trying different ways to make a difference through the day. We'll be right back. Allora ragazzi, abbiamo terminato questa prima lezione sulla biodiversità, ci vedremo la prossima settimana. Mi raccomando, riflettete su quello che ha detto l'esperto virologo sulle fake news. Le fake news non possono essere debellate, ci sono sempre state. Sempre ci sono state nel passato fake news. Anche gli antichi romani usavano le fake news. Solamente che oggi c'è un'abbondanza di fake news. E allora l'unica arma che io vi consiglio di utilizzare, diffidate dalle risposte sciocche date a problemi complessi. Un problema complesso ha una soluzione complessa. Non può essere che a un problema complesso come il coronavirus si risponde alla colpa degli immigrati. Ho sentito dire pure questo, perché è una risposta idiota, sciocca, non sta né in cielo né in terra. Quindi diffidate dai fake news e imparate a informarvi su tutti i canali. Grazie, ciao.